La porta si era richiusa da un pezzo alle spalle del mio augusto ospite e del suo seguito, ma io me ne stavo ancora immobile in mezzo al salotto, solo perché ero troppo stanca per potermi muovere. Guardavo la stanza da cui era appena uscito lo zar e pensavo a Moreau, che era arrivato dall'America per combattere per la libertà della Francia e non ha più potuto vedere le bandiere bianche, le coccarde bianche. I domestici cominciarono a portare via i bicchieri vuoti dello champagne. Il mio sguardo cadde di nuovo sulle violette appassite. Conte Rosen, da dove vengono questi fiori? Li ha portati Caulaincourt. Veniva appunto da Fontainebleau e stava per recarsi da Talleyrand per consegnargli l'atto di abdicazione firmato. Mi accostai al camino. A Fontainebleau fioriscono tante violette. La lettera suggellata non recava sovrascritta. La persi, un foglio bianco sul quale era scarabocchiato un unico segno, una N. Tu fai la mano nel panierino d'argento e mi accostai alla faccia una manata di violette avvizzite. Avevano un profumo dolcissimo, vivo, eppure erano già quasi morte. Altezza, chiedo scusa se vi annoio con questo, balbettò Rosen alle mie spalle. Sua Altezza il principe ha sempre finora trovato il mezzo di farmi pervenire il mio stipendio, ma ora da alcune settimane non ho più ricevuto denaro e certi urgenti acquisti mi costringono. Pierre, voglio dire, il mio maestro di casa vi pagherà subito lo stipendio. Vi prego, Altezza, non vorrei con questo cagionare disagio. A vostra Altezza, anche vostra Altezza non ha più avuto da molto tempo la possibilità di ricevere delle rimesse. Si capisce, e appunto per questo oggi sono così stanco. Ho lavorato tutto il giorno per guadagnare del denaro per la nostra casa. Altezza, mi fissò inorridito. Ma non è il caso di sgomentarsi. Ho venduto delle stoffe di seta. Niente di disonorevole, signor Conte. Si misurano alcuni metri di raso e di mussoline e un po' di velluto da una pezza. Poi si taglia la stoffa, si impacca la merce e si contano i soldi. Lo sapete che sono la figlia di un mercante di sete. Vostra Altezza poteva avere a prestito qualunque somma? Disse lui contrariato. Certo, Conte Rosen. Ma il mio augusto consorte ha da poco pagato con i suoi risparmi i debiti esteri della casa Vasa. Io non vorrei incominciare con i debiti della famiglia Bernadotte. E adesso, caro conte, buonanotte. Fate le mie scuse agli ospiti e pregate la regina Giulia di rappresentarmi a tavola. Spero che l'arrosto di vitello piacerà a tutti. Nel cuore della notte mi destai, mi scossi e mi misi a sedere. Era buio pesto e il silenzio era assoluto. Il cuore mi martellava forte. Mi premetti le mani sulle tempie per ricordare. Qualche cosa mi aveva svegliata. Un pensiero? Un sogno? No, ebbi la sensazione che qualche cosa dovesse succedere in quella notte, forse in quell'ora. Qualche cosa che avevo presentito in tutto il giorno, ma che non riuscivo a raffigurarmi. Prima ero stanca, poi per giunta è venuto anche lo zar. Di colpo seppi che cos'era. Era legato all'atto di abdicazione e alle violette. Dio buono, le violette! Accesi la candela e andai nello spogliatoio. Sulla toeletta c'era ancora l'edizione straordinaria. Rilessi lentamente, parola per parola. L'imperatore, fedele al suo giuramento, dichiara di rinunciare ai troni di Francia e d'Italia e di essere pronto a qualunque sacrificio, non escluso quello della vita. Qualunque sacrificio, non escluso quello della vita. Queste parole mi avevano svegliata. Quando si sa che si è giunti al termine della vita, si ripensa, probabilmente al passato, alla propria giovinezza, agli anni della speranza e dell'attesa. Ci viene in mente una siepe, una ragazza qualunque che si appoggia con noi alla siepe fiorita. Del resto, non è molto tempo che si è rivista quella ragazza con le violette nella scollatura. Nel parco di Fontainebleau fioriscono adesso le viole. I soldati della guardia si aggirano oziosi nel cortile e non hanno più niente da fare. Si fanno loro cogliere le viole mentre si sottoscrive l'atto. Caulaincourt può portare con sé, mentre va a Parigi a consegnare il documento, un ultimo saluto. Si è soli con la propria giovinezza. Si toglierà la vita. Le violette lo provano. Darò ordine a Villatte di andare subito a Fontainebleau, a cavallo, e di penetrare nella camera di Napoleone. Forse Villatte arriverà troppo tardi, ma io devo svegliarlo lo stesso e tentare tutto. Io devo. Io devo? E perché devo impedirglielo? Lui è là, presso la siepe. Costringerlo a desistere, perché questo dovrebbe essere un dovere, solo perché è un dovere. Mi lasciai scivolare dalla sedia e mi rannicchiai sul pavimento, mordendomi i pugni per non urlare. Non volevo svegliare nessuno, fu una notte lunghissima. Quando fu terminata, mi trascinai di nuovo nel letto. Le membra mi dolevano, avevo freddo, tremendamente freddo. Dopo la prima colazione, cioccolata, biscotti bianchi e marmellata dolce del mercato nero, abbiamo di nuovo del denaro, feci chiamare il colonnello Villat. Andate in mattinata nell'ufficio di Talleyrand e informatevi a nome mio della salute dell'imperatore. Poi, in carrozza di piazza, mi feci condurre col conte Rosen al deposito della ditta perché avevo sentito dire che i prussiani fanno acquisti in tutta Parigi e non pagano. I russi andavano a caccia di profumi e bevevano subito le boccette dicendo che erano migliori dell'acquavite. Quando arrivammo nello scantinato della ditta Clary, Monsieur Legrand stava appunto tentando inutilmente di impedire che due o tre prussiani portassero via le nostre ultime pezze di seta. Mandai subito avanti Rose nella sua uniforme svedese. Parigi ha capitolato con la condizione che non si saccheggi, disse Rose in cortese, e io gli diedi una spinta nella schiena. Ma sgridali, è forte! Rosen prese fiato e urlò: Ne riferirò al generale Blücher. I prussiani brontolarono, tastarono ancora la stoffa e finalmente misero mano al portafogli e pagarono. Quando rientrammo nella Rue d'Anjou, i gendarmi dovettero farci strada, tanta era la folla davanti alla mia casa. Davanti al portone due guardie del corpo russe camminavano solenni, avanti e indietro, avevano la barba e facevano un po' paura a guardarli. Un picchetto d'onore, mormorò il conte Rosen. Ma che cosa aspetta di nuovo questa gente? Perché guardano così su alle finestre? Probabilmente si è sparsa la voce che nella giornata arriverà Sua Altezza il principe ereditario. Non dimentichiamo che i sovrani e i marescialli vittoriosi faranno domani il loro ingresso ufficiale a Parigi. Non si può pensare che Sua Altezza non debba prender parte alla testa delle truppe svedesi alla solenne parata. Sarebbe inconcepibile, inconcepibile. Prima del pranzo, Villat mi prese in disparte. Dapprima non hanno voluto parlare, ma quando ho detto che mi informavo per incarico di Vostra Altezza, Talleyrand mi ha comunicato. Bisbigliò. È incomprensibile, disse da ultimo. Poi mi seguì nella sala da pranzo. Quella notte, dal 12 al 13 aprile, non spensi la luce sul mio comodino. Verso le 11 il mormorio davanti alla mia casa cessò, i curiosi si dileguarono, nella Rue d'Anjou regnò il silenzio. I passi delle due sentinelle russe risuonavano. Mezzanotte, nient'altro che i passi delle guardie. Scoccò l'una, il giorno della parata vittoriosa era spuntato, tutti i muscoli della mia persona erano tesi. Stetti in ascolto, mi pareva di impazzire in quell'esasperato tendere d'orecchio. Poi scoccarono le due. Un rumore di carrozza ruppe il silenzio. Delle ruote si arrestarono stridendo davanti alla mia casa. Clic, clac. Le sentinelle presentavano le armi. Fu bussato al portone. Voci, tre, quattro, ma non le voci che aspettavo. Stavo coricata, rigida, con gli occhi chiusi. Qualcuno saliva in fretta le scale, correva. Faceva i gradini due per volta, aprì di colpo la porta della mia camera, mi baciò sulla bocca, sulle guance, sugli occhi, sulla fronte. Giambattista! Il mio Giambattista! Devi prendere qualche cosa di caldo, caro. Hai viaggiato tanto, dissi goffamente e aprì gli occhi. Giambattista si era inginocchiato accanto al mio letto, la sua faccia posava sulla mia mano. Ho viaggiato, sì. Un viaggio terribilmente lungo, disse con voce atona. Con la mano libera gli accarezzai i capelli come splendevano chiari nel lume della candela. È diventato grigio, tutto grigio. Mi alzai. Su, Giambattista, vai in camera tua e riposati. Io intanto scappo in cucina e ti preparo una frittata. Vuoi? Ma lui non si muoveva. Appoggiava la fronte allo spigolo del mio letto e non si muoveva. Giambattista, sei a casa, finalmente di nuovo a casa tua. Levò allora il capo, lentamente. Le pieghe intorno alla sua bocca sono diventate rughe profonde, i suoi occhi parevano spenti. Giambattista, Alzati! La tua camera è pronta e... Si passò la mano sulla fronte come a scacciare dei ricordi. Sì, certo. Puoi ospitarli tutti. Tutti? Non sono venuto solo, naturalmente. Ho condotto Brahe come aiutante, Löwenhielm come ciambellano e poi l'ammiraglio Standing. E... Impossibile, la casa è già gremita di gente. Soltanto la tua camera da letto e il tuo spogliatoio sono disponibili. Non mi resta una sola stanza libera. Gremita? Dio mio, Giulia, i suoi figli, i figli di Ortensia e... Scattò in piedi. Vuoi dunque dire che ospiti tutti Bonaparte e li mantieni a spese della Svezia? No, ho aperto la casa soltanto a Giulia e a dei bambini, Giambattista. A dei bambini. E poi ad alcuni Clary, i due aiutanti. Invece sei stato tu stesso a mandarmeli. Le spese per la casa e gli stipendi dei miei signori aiutanti e del personale svedese le pago del mio. Che cosa significa del tuo? Vendo della seta. In un negozio, sai? Scappai nel mio spogliatoio e indossai la mia bella vestaglia di velluto verde con il collo di martora. Merci della ditta Clary, e adesso farò una frittata per te e per i tuoi signori compagni. Avvenne allora il miracolo. Rise e si sedette sul letto, rise di cuore e allargò le braccia. Ragazzina mia, impareggiabile ragazzina mia, la principessa ereditaria di Svezia e Norvegia vende stoffe di seta. Vieni, vieni qui. Mi avvicinai. Non capisco che cosa ci sia da ridere, dissi risentita. Non avevo più danaro e poi tutto è diventato così caro. Vedrai. 15 giorni fa ti ho mandato un corriere con del danaro. Non è arrivato purtroppo. Senti, quando i tuoi signori avranno mangiato, dovremo trovar loro delle camere d'albergo. Ridiventò subito serio. Il quartier generale svedese deve trovarsi in un palazzo della Rue Saint-Honoré che è stato requisito da un pezzo. Il mio stato maggiore potrà alloggiare lì, probabilmente. Poi aprì la porta che mette dalla mia camera alla sua. Io reggevo la candela. Il tuo letto è rifatto. Perfino la coperta è già ripiegata. Tutto è pronto per te. Ma lui guardava fisso la sua camera da letto, la sua camera con i mobili intimi, familiari, come se non l'avesse vista mai. Scenderò anch'io al quartiere generale svedese. La sua voce era ridiventata incolore. Dovrò ricevere molta gente, qui non è possibile, qui non potrò farlo. Désirée, non mi capisci? Tu non vuoi più abitare qui? Ero sbalordita. Mi cinse la spalla col braccio. Sono venuto a Parigi soltanto per far partecipare le truppe svedesi alla parata della vittoria. Inoltre devo parlare con lo zar, ma a te dico questo, Désirée. In questa camera non tornerò più, mai più. Oh Dio, 5 minuti fa volevi abitare qui con tutto il tuo stato maggiore, protestai arrabbiatissima. Era così prima che rivedessi la camera. Perdonami questo cambiamento, ma di là, donde io vengo, non vi può essere ritorno. Mi strinsi a sé. E adesso scendiamo giù. I miei compagni sperano che tu possa salutarli e Fernando avrà certo preparato una cena. Fernando, ricordo di lui e delle rose nel mio letto nuziale, mi aiutò a tornare alla realtà. Mi detti un po' di rossetto e di cipria. Giambattista ed io entrammo a braccetto nella sala da pranzo. Al mio giovane cavaliere d'un tempo, al conte Brahe, avrei volentieri dato un bacio, ma accanto a lui stava Löwenhielm, che si era dato tanto da fare allora per insegnarmi l'etichetta svedese, così non mi arrischiai. L'ammiraglio von Standing, dalle molte decorazioni, mi venne incontro e anche Fernando, in livrea nuova fiammante con i bottoni svedesi dorati. «E come sta Oscar?» domandai. «Da più mesi mio figlio vive solo fra stranieri a Stoccolma». Giambattista cavò dal portafogli 2 o 3 lettere. Il principe erede ha composto una marcia militare, annunciò orgoglioso. Il mio cuore batté per un momento, agile e lieve. Le candele scintillavano così belle. Oscar compone musica. Il caffè di Fernando era insieme amaro e dolce, come questo ritorno, pensai. Ci sedemmo davanti al camino, nel salotto, ma Giambattista fissava gli occhi in quel buio dove era appeso il ritratto del primo console. Ad un tratto la nostra conversazione cessò. Si fece un silenzio penoso. La sua voce suonò chiara e tagliente. E lui? L'imperatore aspetta a Fontainebleau quel che sarà stabilito sulla sua sorte, e nella notte scorsa ha tentato di uccidersi. Che cosa? Esclamarono tutti insieme Brahe, Löwenhielm, Stending, Rosen. Tacque solo Giambattista. Dopo la campagna di Russia, l'imperatore portava sempre del veleno con sé, dissi io, guardando le fiamme vacillanti. Oggi, o meglio, ieri notte, ha bevuto questo veleno. Il suo cameriere lo ha spiato ed, ecco, ha subito preso dei provvedimenti, questo è tutto. Che provvedimenti? Domandò stupito Löwenhielm. Mio Dio, se volete proprio saper tutto, Constant, il suo cameriere, ha cacciato il dito in gola all'imperatore e allora lui ha vomitato. Poi ha chiamato Caulaincourt e Caulaincourt ha forzato l'imperatore a bere del latte. Poi l'imperatore ha avuto dei violenti dolori di stomaco, ma questa mattina si è alzato all'ora solita e ha dettato delle lettere. Tutto ciò è grottesco, disse Standing e crollò il capo. Tragico e ridicolo insieme, un dito in gola. Perché non si spara? Io tacqui. Giambattista si mordeva il labbro inferiore e fissava il fuoco. I suoi pensieri sembravano essere molto lontani. Ancora questo grave silenzio di piombo. Brahe si schiarì la gola. Altezza, circa la parata della vittoria di domani. Giambattista sussultò dolorosamente. Si passò di nuovo, come dianzi in camera mia, la mano sulla fronte. Il suo sguardo spento si ravvivò. Tornò tra noi, incominciò a parlare secco e conciso. Prima di tutto dovrà essere chiarito ogni eventuale malinteso tra me e lo zar. Lo zar, come voi signori sapete, si aspettava che io passassi il Reno insieme con i russi e i prussiani. Io ho allora condotto le nostre truppe verso il nord e non ho preso parte a nessuna battaglia sul suolo francese. Se i miei alleati mi rimproverassero questo, si interruppe. Io guardai Brahe. Esitando, gli rispose alla mia muta domanda: Ci siamo aggirati per settimane intere, senza meta, Altezza, nel Belgio, anche in Francia. Sua Altezza voleva visitare i campi di battaglia. Brahe mi lanciò uno sguardo smarrito e soggiunse: Solo con grande riluttanza Sua Altezza si è risolto a marciare in Francia. Nei villaggi dove si è combattuto non è rimasta pietra su pietra. Non è questo il modo di fare la guerra. Così no, disse Giambattista tra i denti. A questo punto Löwenhielm aprì risolutamente la cartella da cui non si era mai separato. Ne uscì un pacco di lettere. Altezza, ho qui tutte le lettere autografe dello zar, alle quali non è stata data risposta, disse ad alta voce. Si tratta prima di tutto. Non ditelo, gli gridò Giambattista. Non lo avevo mai visto così padrone di sé. Poi si curvò e guardò fisso le fiamme. Gli occhi degli svedesi erano rivolti a me. Ero l'ultima loro speranza. Giambattista, incominciai, ma egli non si mosse. Allora mi alzai, mi inginocchiai accanto a lui e appoggiai il capo sul suo braccio. Giambattista, devi lasciar parlare i signori. Lo zar ti ha offerto la corona di Francia, non è vero? Sentii che il suo corpo si irrigidiva per lo sdegno, ma non mi diedi per vinta. Tu non hai risposto allo zar. Così domani il conte Artois, il fratello di Luigi, XVII, farà tutti i preparativi per l'entrata dei Borboni. Evidentemente lo zar ha finito con l'uniformarsi ai desideri degli altri alleati e alle proposte di Talleyrand. Ma lo zar non capirà mai perché io non abbia passato il Reno con lui, perché io non abbia combattuto sul suolo francese, perché io non abbia neppure risposto alla sua risolutiva offerta. D'altra parte, la Svezia non può permettersi un contrasto con lo zar, mi capisci? Giambattista, lo zar è così fiero di esserti amico e capisce benissimo perché tu non puoi accettare la corona di Francia. Gli ho spiegato tutto io. Tu? Tu gli hai spiegato tutto? Giambattista mi afferrò per le spalle e mi guardò fissa in faccia. Sì, è stato qui a rendere omaggio alla moglie del vincitore di Lipsia. Come respirarono sollevati Giambattista e i suoi svedesi. Mi alzai in piedi. E adesso vi auguro buonanotte, anzi buon mattino, signori miei. Prima della parata della vittoria potrete riposare ancora alcune ore. Spero che in questo frattempo tutto sia stato preparato in Rue Saint-Honoré. Poi uscì in fretta dalla sala. Tutto a un limite ed io non volevo esserci. Mentre Giambattista abbandonava la sua casa per recarsi a pernottare in un qualunque palazzo nei dintorni. Sulla scala, egli mi raggiunse, mise senza far parola il braccio sulle mie spalle e si appoggiò a me pesantemente. Così arrivammo nella mia camera da letto. Mi inginocchiai davanti a lui e cercai di sfilargli gli stivali. Tiravo e tiravo. Devi aiutarmi un poco, Gian Battista, altrimenti non riesco a toglierli. Se sapessi come sono stanco. Si lasciò svestire come un bambino. Finalmente ci riuscii. Tirai la coperta su di noi e spensi la candela. Ma il mattino già si insinuava inesorabile tra le fessure delle imposte. Questa maledetta rivista della vittoria, mormorò. E poi, senti, io non posso sfilare tra Rattachum e Rataplan per gli Champs-Élysées alla testa dell'Armata del Nord. Non posso, non posso. Sì che puoi. Gli svedesi si sono battuti bene per la libertà d'Europa e adesso vogliono entrare in Parigi a passo di parata sotto la guida del loro principe ereditario. Quanto durerà tutto questo? Un'ora? 2 ore al massimo? Sarà molto più facile che a Lipsia, Giambattista. Un gemito. A Grosper mi ha mandato contro i miei più vecchi reggimenti. Dimenticalo, Giambattista, dimenticalo. Io mi odiavo, eppure continuavo a parlare. Pensa a ciò per cui hai combattuto. Per che cosa? Per il ritorno dei Borboni, forse? Désirée, che cosa hai veramente detto allo zar? Che tu sei repubblicano in Francia e principe ereditario in Svezia. Con parole un po' diverse, Giambattista, ma lui mi ha capito. Tacque e respirò più tranquillo. E gli hai detto ancora qualche cosa, ragazzina? Sì, gli ho detto che tu non vuoi la corona di Francia, ma che ben volentieri sposeresti una granduchessa, perché lui non creda che tu respingi tutte le sue proposte. Eh? Dormi, Giambattista. Lo zar dice che faresti meglio a restare con me, le granduchesse che hai in magazzino non sono affatto belle. Eh? E finalmente si addormentò, di un sonno leggero e inquieto, come quello di un viaggiatore nell'estraneo letto di un albergo qualunque. Quando si svegliò, scosse il capo, disgustato. Non posso, era come un singhiozzo, non posso. Gli mise le mani sulle spalle. E dopo la parata della vittoria dovrei farti vedere alla rappresentazione di gala del Théâtre Français, Gian Battista. Devi far questo per la Svezia. Temo che tu adesso debba alzarti, caro. Si appoggiò alla spalliera. La sua testa posava sul mio petto. Le sue labbra smorte erano screpolate e mordicchiate. Credo che durante questa parata della vittoria uno soltanto sarà solo come me. E questo è lui. Assurdo. Tu non sei solo. In fin dei conti, io sono con te e non con lui. Va adesso. I tuoi signori aspettano. Egli si alzò, ubbidiente, e si portò la mia mano alle labbra. Promettimi che non andrai alla parata. Non vorrei che tu mi, ecco, che tu mi vedessi. Si capisce che non ci andrò, Gian Battista. Starò in giardino e penserò a te. Quando le campane cominciarono a suonare, mi sedetti in giardino. Le campane annunciavano l'inizio della parata della vittoria e continuarono a suonare ininterrottamente, mentre le truppe vincitrici, al comando dell'imperatore di Russia, dell'imperatore d'Austria, del re di Prussia e del principe ereditario di Svezia, entravano tra il clangore delle musiche in Parigi. I ragazzi erano partiti nella mia carrozza con Madame Laflotte e con la governante per godersi lo spettacolo. All'ultimo momento montarono in carrozza anche i miei nipoti, Mario e Marcellina. Dio sa come abbiano fatto a trovar posto. Giulia era a letto e si faceva applicare da Maria delle pezzette all'aceto sulla fronte. Era offesa perché Gian Battista si era scordato di salutarla. Avevo dato libera uscita alla servitù. Fu così che mi trovai sola in giardino e nessuno venne ad annunciarmi il visitatore inatteso. Questo visitatore inatteso aveva trovato aperto il portone. Era entrato e aveva attraversato i due salotti vuoti. Finalmente entrò in giardino. Io non me ne accorsi perché tenevo chiusi gli occhi per pensare intensamente a Gian Battista. Gli Champs-Élysées non finiscono più quest'oggi, Gian Battista, non finiscono più. Altezza! Gridò una voce tra lo scampanio. Altezza! Aprii gli occhi spaventata. Qualcuno davanti a me si piegava in un profondissimo inchino, poi si drizzò. Naso aguzzo, occhietti dalle pupille come capocchie di spillo. C'è dunque ancora costui. Quando Napoleone scoprì che il suo ministro di polizia trattava segretamente con gli inglesi, lo scacciò. Ma poco prima della battaglia di Lipsia nominò ancora Fouché governatore di certi territori italiani per allontanarlo da Parigi. L'ex giacobino indossava una modesta marsina con una grossa coccarda bianca. Accasciata, gli indicai la panchina. Subito si sedette accanto a me e incominciò a discorrere, ma le sue parole andavano sommerse nel suono delle campane. Con aria dolente chiuse la bocca e sorrise. Io mi volsi altrove. Giambattista, ormai non può più durare molto. Le campane tacquero. Chiedo scusa, Altezza, se vi incomodo. Io avevo già dimenticato Fouché. Lo guardai di malavoglia. Vengo per incarico di Talleyrand, da Madame Giulia Bonaparte, incominciò e trasse un documento dalla tasca interna. Talleyrand è in questi giorni occupatissimo, mentre io. Sorrise dolorosamente. Purtroppo dispongo di molto tempo. E poiché desideravo anche fare una nuova visita a Vostra Altezza, ho detto a Talleyrand che avrei portato io stesso il documento. Riguarda l'avvenire dei componenti la famiglia Bonaparte. Mi porse la copia di un lungo scritto. La darò a mia sorella, dissi. Egli batté col dito sulla carta. Guardate la lista, Altezza. Lessi. Alla madre dell'imperatore 300.000 franchi, al re Giuseppe 200.000 franchi, alla regina Ortensia e ai suoi figli 400.000 franchi, al re Girolamo e alla regina 500.000 franchi, alla principessa Elisa 300.000 franchi, alla principessa Paolina 300.000 franchi. Ogni anno, Altezza, ogni anno, spiegò Fouché. Alla famiglia dell'imperatore vengono assegnati immobili o rendite che garantiscono loro come entrata annua queste somme. Il nostro nuovo governo è davvero generoso, Altezza. Dove potranno prendere dimora i membri della famiglia? All'estero. Soltanto all'estero, Altezza. Giulia, che si sente infelice ogni volta che esce dalla Francia, un'emigrata per tutta la vita. E perché? Perché allora io le ho portato in casa Giuseppe. Devo cercare di venirle in aiuto, pensai. Farò tutto quello che potrò per tenerla qui. Pregherete Sua Altezza di adoperarsi per Madame Giulia Bonaparte, non è vero? Andrete anche da Sua Maestà Re Luigi a intercedere per vostra sorella. Re Luigi, ripetei, e cercai di abituarmi a questo nome. Sua Maestà è già atteso alle Tuilerie nei prossimi giorni? Che cosa ha fatto veramente questo Re Luigi per i suoi emigrati in tutti questi anni? Di che cosa si è occupato? Mi informai, volevo farmi un'idea della sorte dei fratelli Bonaparte. Sua Maestà è stato quasi sempre in Inghilterra e ha impiegato il suo tempo a studiare. Il re ha tradotto in francese una grande opera, La storia della decadenza e caduta dell'impero romano, di Gibbon. Insomma, ha tradotto della storia, non ne ha fatta, dichiarai. E questo re Luigi porta con sé anche la sua corte? Naturalmente. I veri fedeli seguaci della casa Borbone tornano. Ora soltanto in Francia con lui, perciò vorrei anche pregare Vostra Altezza. Lo guardai stupefatta. Egli non se ne accorse. Di intercedere anche per me. Forse Sua Maestà non assegnerà tutte le cariche soltanto ai francesi che hanno dimorato all'estero dopo la rivoluzione. Se mi potesse ricordare. Ah, non siete certo stato dimenticato, Monsieur Fouché. A quel tempo ero ancora una bambina, ma ricordo benissimo le migliaia di sentenze di morte che avete sottoscritte. Questo, Altezza, è dimenticato, si aggiustò la coccarda bianca. Bisognerebbe ricordare invece che in questi ultimi anni ho segretamente tentato di far concludere la pace con l'Inghilterra. Il generale Bonaparte mi ha incolpato di tradimento, ho rischiato la vita, Altezza. Guardai ancora il documento che tenevo in mano. E il generale Bonaparte? Ottime condizioni. Il generale è libero di scegliersi un domicilio fuori di Francia, un'isola, per esempio l'Elba, o di imbarcarsi per oltremare. Una scorta armata di 400 uomini, che il generale stesso ha il diritto di scegliersi, lo potrà accompagnare. Inoltre, il generale conserva il titolo di imperatore. Generoso, molto generoso, non è vero? Che decisione ha preso l'imperatore? Si parla dell'Elba, una piccola incantevole isola che sembra ricordi il luogo dove è nato il generale. La stessa vegetazione della Corsica, dicono. E l'imperatrice? Sarà nominata duchessa di Parma, a condizione che rinunci a riconoscere suo figlio erede al trono. Ma questi particolari saranno stabiliti a Vienna in un grande congresso. Ricostruzione di una nuova Europa, ritorno delle dinastie cacciate da Bonaparte, professione di legittimismo, altezza. Suppongo che anche Sua Altezza il Principe andrà a Vienna per far valere i suoi diritti al trono di Svezia. Si schiarì sommessamente la gola. Ho saputo che purtroppo da parte austriaca e prussiana si afferma che Sua Altezza non avrebbe, ecco, dei diritti legittimi. Naturalmente io sono tutto a servizio di Sua Altezza per scandagliare gli umori di Vienna e mi alzai in piedi. Non capisco che cosa vogliate dire. Consegnerò il documento a mia sorella. Se si fosse trattenuto un minuto di più avrei chiamato aiuto. Poi scoprì le prime margheritine tra l'erba e i boccioli sui rosai. È venuta la primavera a Parigi. Non possono scacciare così, Giulia. Voci infantili ruppero il silenzio. Tornavano dalla parata e mi corsero incontro due ragazzine magre, cresciute troppo in fretta, in giubbettini rosa, e due ragazzini biondi in uniforme di cadetti. Zia Desirée, lo zio era magnifico! Carlotta era quasi senza fiato per l'eccitazione. Montava un cavallo bianco e portava un cappotto di velluto violetto. Così elegante! Non era un cappotto, ma una mantellina, la interruppe serio suo cugino Luigi Napoleone. Aveva delle piume di struzzo bianche sul cappello e in mano una bacchetta d'argento. Il bastone del comando, le spiegò Luigi Napoleone. Lo zio Mario dice che era il suo antico bastone di maresciallo, sussurrò Zenaide. E la faccia, come scolpita nel marmo, dice la zia Marcellina, disse Carlotta. Così pallido. Domandai spaventata. No, così, ecco, immobile come una statua. Lo zar sorrideva sempre, il vecchio imperatore d'Austria faceva persino dei segni, ma il re di Prussia. I bambini cominciarono a ridacchiare. Senti, il re di Prussia faceva una faccia così cattiva e corrugava la fronte con tutte le altre smorfie, sai, perché in avvenire abbiamo più paura di lui, ha detto lo zio Mario. E la gente, gli altri che stavano a guardare, che cosa dicevano? Oh, ne dicevano tante. C'erano tante cose da vedere. Tutte quelle uniformi straniere, il cavallo così bello dello zar e, sai, i cosacchi, oltre alle loro armi, portavano anche delle lunghe fruste. E i prussiani ci hanno fatto tanto ridere. Quando marciano in parata buttano le gambe alte così e. Che cosa diceva la gente quando è passato lo zio Giambattista a cavallo? I ragazzi si guardarono tra di loro, impacciati. Allora, zia, si è fatto un improvviso silenzio, disse Luigi Napoleone esitante. Davvero un silenzio assoluto. Gli svedesi hanno conquistato molte aquile e bandiere e le portavano dietro di lui, mormorò Carlotta. Zia, le nostre aquile, sbottò di colpo Carlo Luigi Napoleone, desolato. Andate in casa adesso, ragazzi, e fatevi dare da Maria qualche cosa da mangiare, dissi in fretta. Poi decisi di parlare a Giulia. Dapprima cercammo di capire bene il contenuto del documento che in stile burocratico decideva della sua sorte. Giulia buttò via le pezze e affondò singhiozzando la faccia nei cuscini. Io non vado via, io non vado via, non vado via, gridava disperata. Mortefontaine non me la possono prendere. Désirée, devi fare in modo che io possa restare a Mortefontaine con le bambine. Le carezzai gli esili capelli arruffati. Per adesso tu rimani da me. In seguito potremo tentare di riavere Mortefontaine, ma. E Giuseppe? Se Giuseppe non otterrà il permesso di soggiornare in Francia, allora. Giuseppe mi ha scritto da Blois. Pensa di partire per la Svizzera e di comprarsi laggiù una tenuta. E io dovrei raggiungerlo con le bambine al più presto, ma io non parto, io non parto! Si mise a sedere improvvisamente. Désirée, tu non mi abbandonerai adesso. Tu resterai con me fino a che tutto non sia sistemato, non è vero? Io annuii. Non andrai in Svezia. Resterai qui, nella tua casa, no? E mi aiuterai? Sono stata io a impegolarla con i Bonaparte. È colpa mia se adesso lei non ha più casa. Devo aiutarla, lo devo. Me lo prometti? Resterò con te, Giulia.